trainer, yes, Commander Chu. Now boarding. Welcome to the radio cabin. At the drive. Guardavi solo me mentre cantavi Chinatown. L'orchestra ripeteva Shibidoo. Mi resta solo un disco per tornare giù da te. At the drive. Now Boarding, questa associazione a delinquere che per un'ora rapisce italiani all'estero e li fa parlare, e gli fa dire tutto della loro esperienza. Siamo tornati con una nuova avventura. Ciao Francesco, ti trovo bello pimpante oggi. Ciao Lorenzo, sì, data la meta, insomma, ci mette un po' di carica. Ecco, un po' di energia. A chi andiamo a rompere le uova nel paniere? Oggi puntata dedicata alla Spagna, o meglio all'Andalusia e alla città di Jaén. E quindi, giustamente, dovendo parlare di Spagna, quale meta migliore se non chiamare Gorizia? Infatti, mi sembra assolutamente logica come cosa. Ciao Greta, ci sei? Ciao. E tu sei Gorizia, giusto? Sì. Che non è ancora passato in Andalusia. No, per il momento no, però ci sarà un referendum a breve. visto come vanno le cose, hanno chiesto di trasferirsi in Andalusia, ecco. Ho tolto quello sull'acqua, quello sul nucleare, però metteranno quello per far passare Gorizia in Andalusia. Ecco. Allora, come mai tu sei a Gorizia e non a Jaén? Perché purtroppo ho già finita la mia esperienza Erasmus, è durata solo 6 mesi, nonostante la mia borsa fosse di 10, ma per questioni burocratiche, per riuscire a finire prima l'università, ho scelto di ridurre i mesi di vacanza, diciamo. Ok, quindi sei rientrata un po' prima. Sì, sono entrata 4 mesi prima circa. Ecco. E noi abbiamo già avuto qualche Erasmus qui a Now Boarding, però non abbiamo mai forse approfondito proprio cos'è un Erasmus o come si fa a intraprenderlo, queste cose qua. Quindi ti volevamo chiedere un po' di informazioni in realtà, innanzitutto su cos'è l'Erasmus. Sì, devo dire che la parte burocratica è snervante. In certi momenti ho pensato di mandare tutto all'aria perché veramente non ce la facevo più. Mancano firme, non riesci a recuperare i professori per farti firmare le carte per partire, devi fare tutto l'ultimo minuto e l'ufficio mobilità, almeno della mia università, non so come siano le altre, sicuramente non ti viene incontro. Tu in che università sei? Come? In che università studi? In Trieste. Consiglio a Gorizia, però l'università è quella di Trieste. Diciamo che la segreteria dell'Università di Trieste non è mai stata troppo accomodante, possiamo dire così, almeno a seconda della mia esperienza, devo dire, non aiutano mediamente. E l'ufficio Erasmus ancora meno, devo ecco. Dire, però. Che non mi sentano perché devo ancora concludere le carte da quando sono tornata. Allora, Now Boarding, oggi sconsigliamo di andare all'estero, per quelli che fanno l'Università di Trieste. Rimanete in Italia o in Andalusia se siete a Gorizia, insomma. Quindi in realtà come funziona? Cioè, se tu decidi, bene, voglio fare un Erasmus, la prima cosa da fare è? La prima cosa da fare è aspettare che esca il bando. Anche se io in realtà non ho fatto domanda subito perché non ero sicura di chiederlo, non avevo paura, siccome è il mio ultimo anno di università, questo non volevo perdere tempo. Poi alla fine è scaduto il bando, sono rimaste le borse vacanti e ho detto, vabbè, chiediamolo. E ho chiesto Jaén, non so neanche io perché in realtà, non sapevo neanche dove fosse prima di partire, oltre al fatto che la pronunciavo in maniera sbagliata. Poi ho guardato nella map, visto che era Andalusia, visto che era vicino Granada, vicino Cordova, vicino Siviglia, Malaga, sole 4 ore da Madrid, per esempio, era una posizione un po' strategica, e ho detto perché no. E quindi ho scelto di andare a Jaén, ho scritto al mio coordinatore per avere un incontro. In realtà non ha neanche testato il mio livello linguistico di spagnolo, cosa che sarebbe dovuta fare se avessi fatto domanda per il bando quello appena era uscito, mentre per le borse vacanti basta solo compilare un foglio, farlo firmare da questo coordinatore, portarlo all'ufficio Erasmus e aspettare. Quindi in realtà ci stai quasi consigliando di aspettare le borse vacanti? No, non lo sto consigliando. No, perché magari uno, non so, a quella di andare in Portogallo, poi nelle borse vacanti il Portogallo non c'è. Gli capita la Slovacchia, è un po' un problema a quel punto. È là, è un problema. È un po' contrastante, quindi ho detto, vabbè, lasciamo, non so perché all'inizio volevo andare in Turchia, in Turchia. Sì. Abbiamo avuto la puntata su Istanbul, che è stato molto interessante. Ok, però... quindi tu fai scienze internazionali diplomatiche, ti sei trasferita per questi 6 mesi a Haen, che tra l'altro è anche un'università abbastanza recente, mi sembra, nel senso che è moderna come costruzione e comunque che facoltà ha? Solo umanistiche o anche scientifiche? Ha tutto. Ah, tutto. Campus, l'università è molto bella, non so se avete visto qualche foto, però è veramente molto bella. Non ha veramente niente a che vedere con le università che sono qua in Italia. Tra l'altro Haen è la provincia più povera di tutta l'Andalusia, della seconda provincia più povera di tutta la Spagna, e mi aspettavo una cosa catastrofica. Invece veramente non ha niente a che vedere, bellissima, c'è anche un laghetto con delle fontane, per dire. E ogni classe sono... penso una decina di edifici, ogni edificio per esempio è scienze politiche, non so, medicina oppure biologia, quello che è, e ogni classe, che ce ne saranno, non so, 100-150 per edificio, ha un computer per proiettare sullo schermo le slide, per esempio, oltre che le stanze computer per tutti gli studenti, cosa che almeno da me non si vedeva. Assolutamente, bisognava lottare nella mia università per avere un proiettore in aula durante la lezione. E c'era anche alloggi in questo campus? Oppure gli alloggi stavano altrove? Sì, c'erano due possibilità: o ti trovavi appartamento, che è la scelta che ho fatto io, oppure sceglievi la possibilità dell'alloggio, però costava molto di più, costava circa 600 euro al mese. L'alloggio più i pasti, però non conveniva assolutamente, perché a Haen l'affitto medio è di 160 euro per una singola spaziosa. Quindi è molto basso. E quindi una volta che si viene accettati per l'Erasmus, si ha a disposizione anche una borsa di studio, comunque dei fondi? Sì, anche lì 1000 carte ovviamente per avere questo. Fondi che vengono stanziati circa dopo 4 mesi che sei in Erasmus. Okay. Solamente italiani, quindi i primi 4 mesi devi cavartela con i tuoi soldi, e dopo ti arrivano i soldi che ti rimborsano di quello che hai speso nei primi 4 mesi. Esatto, però se conti che i primi mesi è il periodo in cui prenoti l'aereo, spendi 3 o 4 notti di ostello, telefonate per cercare casa, trovi la casa, devi prenderti, non so, asciugamani, una scopa, perché nella casa non c'è, spese normali che comunque devi mettere in conto. E sì, questi soldi le spese d'entrata sono sempre le più onerose, e quindi insomma è nei primi 4 mesi che si spende di più a livello economico, e quindi non ti è arrivata prima di 4 mesi la borsa. Mi è arrivata, mi pare, a gennaio, mi pare, sì. E comunque questa borsa copre abbastanza dei costi o in realtà è minima, o poi come viene assegnata, anche in base a quali criteri? Per gli italiani sono 230 euro al mese. In qualsiasi posto tu vada, cioè indipendentemente? Penso che sia così, perché almeno dalle esperienze anche degli altri che ho sentito così. Io sono fortunata perché, come ho detto, l'affitto di 160, io pagavo 170, e 230 euro al mese mi pagavo l'affitto e le bollette, poi per il resto mi arrangiavo. Però penso ad uno, magari va in Erasmus a Madrid o... non so, a Stoccolma, o come una mia amica che era nata in Finlandia. Lì è più un problema. È totalmente diverso. Sì, infatti forse dovrebbe essere magari commisurata anche al paese. Sì, in non cui una cosa fissa, ma a seconda di dove vai, anche perché comunque il costo della vita cambia totalmente da zona a zona. E ok, allora io presenterei il primo pezzo. Dunque Greta, tu, cioè, io te lo devo dire, cioè, ci hai fatto una scelta di brani per la nostra trasmissione che... ti ha lasciato a bocca aperta, quindi noi ti prenderemo in giro tutto il tempo, te lo dico subito. Il primo che hai scelto sono i Macaco, non so se è Macaco uno, con La mano levantà, giusto? Come mai l'hai scelto? Questa è molto orecchiabile, molto tranquilla, è... non so, mi ricorda tanto l'Andalusia. Ok. Gli spagnoli sono tamarri, quindi non è colpa mia se le canzoni... Ecco. Quindi prima di partire non eri così tamarra, lo sei diventata stando lì, insomma. Certo. Ok, allora andiamo con i Macaco, con La mano levantà. Sulle mani! Con la mano levantà, al pasado le digo adiós. y el futuro que vendrá. Dicen que pende de un hilo y el presente aquí contigo, mano a mano. Oye, mi hermano, disfruta el camino. Con la mano levanta, al pasado le digo adiós y el futuro que vendrá. Dicen que pende de un hilo y el presente aquí contigo, mano a mano. Oye, mi hermano, disfruta el camino. Con la mano levanta, tocaré, bendito y tocando el cielo. Con la mano levanta, tocaré, bendito y tocando el cielo. De puntillas pa' tocar, o subiendo un escalón, escribiendo otra canción. De escaleras al cielo, busco un sitio pa' saltar, que me dé alas pa' volar, realidad a ras de suelo. Con las manos levantas, no nos vieron al pasar, cuántas manos hay que alzar, para que escuchen de nuevo, tu arma la imaginación, tu escudo no protección, intuyendo el movimiento. Ale, olè, che scenario devastante. Eccoci in trasmissione con Greta, che sta parlando con un certo garbo. Allora, dunque Greta, com'è stata la ricerca dell'alloggio? Hai avuto problemi per quanto riguarda trovare appunto il posto? Oppure è andato tutto liscio come l'olio appena arrivata là? Problemi no, però io comunque mi ero informata, siccome c'era una mia compagna di corso che era in Erasmus a Caen l'anno prima, ho chiesto a lei innanzitutto se valeva la pena andare in questo studentato dove pagavi 600 euro al mese. La mia ha detto ovviamente di no, perché gli affitti sono bassi. Poi ho cercato su diversi siti spagnoli di affitto case, se affittavano degli appartamenti o delle stanze, e mi ero tirata giù alcuni numeri contattando già prima i proprietari, dicendo che sarei arrivata il 6 settembre, se avrei potuto chiamarli dopo nel caso che l'appartamento fosse stato ancora libero. Quindi avevo prenotato due notti di ostello insieme a un altro ragazzo che era partito con me, e poi da lì mi sono fatta una scheda spagnola, ho cominciato a chiamare, a contattare i numeri che già avevo, in più altri che ho trovato in università. Dopo due giorni ho prenotato una casa che tra l'altro avevo visto già prima su internet. Quindi già riuscire, cioè già è importante dare un occhio prima, magari già prendere qualche contatto prima di partire, proprio per non arrivare alla sprovvista, dici? Esatto, anche io comunque sono partita molto presto, perché la maggior parte della gente è arrivata verso metà o fine settembre, io sono arrivata al 6 e quindi non c'era ancora tanta concorrenza, diciamo, però quelli che sono arrivati dopo hanno trovato più difficoltà. Alcuni avevano anche prenotato la casa prima senza vederla, cosa che io non avrei mai fatto. No, beh, quella è una cosa secondo me da evitare assolutamente, perché poi capiti in un posto in cui ti trovi malissimo, o che ha dei problemi grossi, ecco, come fai? No, invece volevo chiederti, ma questo studentato che costava 600 euro al mese, che secondo me è tantissimo, e era frequentato da qualcuno? Cioè, oppure alla fine era mezzo vuoto? Era mezzo vuoto. Infatti, cioè, immagino, perché... Era... Per questo ragazzo tedesco viveva là perché non aveva mai vissuto da solo e i soldi non gli mancavano, gli faceva comodo avere la donna che gli faceva le pulizie, perché lì avevi anche le pulizie due volte a settimana, mm-hmm. e i pasti già pronti. Poi vabbè, un uomo non sa neanche cucinare, quindi ovvio che vada là. Ecco, ma solo questo tedesco c'era là e per il resto c'era... Sì. E poi c'erano una ventina di spagnoli. Ah, ok, fenomenale, quindi una specie di casa dei fantasmi? Sì. Ok. Tra l'altro questo spagnolo si lamentava perché gli avevano fatto fare dei riti di iniziazione, tipo, non so... Nello studentato? Andare da una ragazza in discoteca e dirle, boh, qualche porcata, non mi ricordo adesso. Ah, però c'è... Ok, non serve che ci dici letteralmente cosa gli diceva, ma possiamo immaginare. Più o meno quello che facciamo io e Francesco ogni volta che approcciamo una ragazza. Probabilmente anche quello che è nei testi delle canzoni che ci ha suggerito Greta, credo che ci siano. Sì, l'andazzo anche di queste è quello, cose. Ok, quindi successivamente alla ricerca dell'alloggio, ci sono stati altri problemi per ambientarti? Ti sei ambientata subito? Che gente frequentavi più o meno là dell'università? Tra l'altro mi ero trovata le coinquiline anche prima di partire. Cioè, hai trovato le coinquiline prima di trovare la casa? Sì. E se la casa aveva un posto letto in meno? Ma perché, allora... La mia paura era quella di andare a vivere con italiani, cosa che non volevo fare, anche perché un paese straniero, se parli in casa italiano è finita, non impari mai più la lingua. Certo. Allora c'era per esempio il gruppo su Facebook a volte serve, che si chiamava Erasmus Haen 2011. Allora ci siamo un po' giunti a vicenda, abbiamo parlato e ho contattato una ragazza tedesca e una ragazza polacca chiedendo se loro arrivavano da solo con delle amiche, che in caso potevamo cercare casa insieme. Loro arrivavano entrambe dopo di me, la tedesca prima ha voluto vedere la casa e mi ha detto di sì, la polacca mi ha detto per me va bene tutto, non ho voglia di perdere tempo, ho trovato una casa da tre ed è stato perfetto. Che è quella che poi hai mantenuto per tutta la durata dell'Erasmus? Sì, sì, mi sono presa anche la camera migliore, visto che sono arrivata. Ecco, è la tipa polacca che ha detto mi va bene tutto, l'avete buttata in sgabuzzino e avete anche buttato via le chiavi dopo. Ok, e quindi comunque, insomma, ti eri già organizzata bene, non è stato difficile muoversi là a Haen, giusto? No. L'unica cosa è che la mia casa era in pieno centro storico e la maggior parte della gente invece viveva... diciamo nel centro divertimenti, un po' più verso la periferia. Però a me piaceva la parte storica, è proprio bella. Le preferite? Era vicino alle discoteche, vicino al bar dove c'era il casino. Se avevo voglia mi spostavo, se no rimanevo nella tranquillità della cattedrale. Ma infatti hai fatto bene, secondo me. Anche perché non è così grande Haen, no? No, non è grande, mi pare 120.000 abitanti. Sì, quindi insomma più che fattibile. Tra l'altro io ho sentito delle voci che dicono che nella tua casa di Haen non battesse mai il sole. È vero. È vero? Sì, è vero. Però in compenso c'era molto fresco, vero? In inverno faceva molto freddo, però io, quando sono arrivata io a inizio settembre, sono atterrata a Granada verso le 6 di pomeriggio, mi pare, e faceva un caldo allucinante. C'erano 30 gradi alle 9 di sera quando siamo arrivati a Haen, veramente assurdo. Di notte non si poteva dormire senza aria condizionata ed era metà settembre, non oso immaginare come fosse ad agosto. Immagino. E, beh, allora è arrivato il momento del prossimo pezzo che provo a leggere. Allora, il pezzo dice: io no quiero agua, io quiero bebida. Che immagino deve essere qualcosa tipo: a me non piace l'acqua, a me piace tipo la bibita alcolica. Non voglio acqua, voglio bere alcolici, quello è il senso. Fantastico. Che si sentiva sempre quando andavi o nel disco pub o nella discoteca o anche nelle feste in casa, nei botellon, varie cose. Ormai era la sigla dell'Erasmus, nonostante sia la canzone più tamarra che abbia mai sentito in vita. E quindi possiamo farci un'idea di com'è stato il tuo Erasmus. Andiamo a ascoltarci il nome di tutto un programma, Pitbull. Todas tan bien ricas y fuera de liga. Llama a los bomberos. Haen, estate 2011, sulle mani. Lorenzo, per favore, rimetti la maglietta e ritorniamo in diretta. Scusami, Checco, scendo subito dal tavolo. E quelle due brasiliane, mandale via, per favore. Verso un gin tonic e ritorniamo in puntata. Greta ci sei ancora? Noi siamo estremamente galvanizzati dal buon Pitbull. Stavo raccogliendo la maglietta. non si può ascoltare Pitbull senza togliersi la maglietta. Allora, tu hai trovato casa e poi insomma sembra che sia iniziata un po' la festa, no, della vita da Erasmus, giusto? Da subito, sì. Beh, a parte, inizialmente eravamo veramente in pochi a Caen, perché come detto prima tutti arrivavano verso fine o metà mese, però quelli che c'erano hanno cominciato ad esplorare la città, i vari pub, i vari posti, oppure a fare le cene in casa, i cosiddetti bottiglion, dove ognuno porta una bottiglia da bere, ci si ritrova a bere sostanzialmente perché non si fa altro. Bene, quindi mi dimenticavate anche di mangiare nonostante si chiamassero cene, ecco. E scusate, chi ha portato il primo? Io no, però ho la vodka, se volete, la mettevano nei piatti. Ok, quindi insomma ti sei subito inserita nella vita notturna dell'Erasmus, ecco. E invece con gli spagnoli come ti sei trovata con la popolazione del posto? Ma devo essere sincera, non ho legato tanto con gli spagnoli, ma non so perché in aula, comunque per esempio in università, che è il luogo dove hai più possibilità di incontrare spagnoli visto che sei inserita nelle loro classi, loro tendevano a non curarsi molto degli Erasmus, non so perché, devo dire. Non ho mai capito questa cosa, però l'ho notata. Forse perché magari i professori fanno un po' di preferenza verso gli Erasmus e aiutano, a loro da fastidio, non lo so. E quando si usciva la sera tendevo comunque io stessa ad uscire con gli Erasmus e tutto quanto, anche se comunque tra di noi si parlava spagnolo. Gli unici rapporti che ho avuto con gli spagnoli, infatti, con il mio proprietario di casa, che era un angelo, è stato come un secondo padre per me, ci trattava veramente bene. Ma viveva con voi? No, però veniva sempre ad aiutarci, qualsiasi cosa mi fa. Pedro si chiamava. Saluto Pedro. Hola Pedro. Ale Pedro. Infatti ci sono un po', allora, un po' anche da quello che abbiamo sentito nelle altre puntate, diverse scelte che uno fa. O arriva e inizia a stare con italiani, però questo gran parte lo evitano, oppure c'è quella di iniziare a vivere con ragazzi di varie nazionalità, che mi sembra quello che hai fatto tu, oppure cercare di integrarsi più con, in questo caso, con gli spagnoli, che forse è la cosa più difficile, entrare in contatto con chi vive stabilmente lì, come dicevi anche tu. Ma ti dico anche che molti hanno avuto problemi vivendo con spagnoli. Tipo? Non so, perché per esempio Ogé, che è un nostro amico francese che adesso ha preso la mia camera, Han, ha cambiato appartamento appunto perché si è trovato male vivendo con solo i spagnoli. Un altro esempio invece è un ragazzo che fa la mia università, che però al primo specialistico, non al secondo, lui viveva con tre spagnoli maschi, lui si è trovato da Dio. Tre ragazzi pulitissimi, ordinati, che facevano feste, organizzavano cene, però lui è stato uno dei pochi esempi positivi, devo essere sincera. Gli altri, molti parlavano veramente male, non so perché, non me lo so spiegare. Varie dicerie. E non volevo assolutamente girare solo con italiani. Vabbè, quello è una cosa che evitano un po' tutti di fare, perché alla fine non ha neanche senso, effettivamente. E ci parlavi invece del botellón, che insomma feste in casa, feste all'aperto invece organizzate in città? Sì, d'estate, per esempio a settembre-ottobre, sì, fino a ottobre c'erano i botellón di giovedì in Plaza de Toros, dove ognuno portava da bere, si creavano questi botellón con, non so, 200-250 persone che bevevano per strada, lì è normale la cultura. O per esempio invece appena arrivati in Spagna, neanche dopo un mese, inizio ottobre, c'era la feria, che è la festa del paese, diciamo, solo che non è come le nostre sagre, lì è una cosa allucinante, enorme. E quella di Jaén è l'ultima di tutta l'Andalusia prima dell'inizio dell'inverno, e quindi c'era il disastro di gente, perché lì ci sono, dura 10 giorni in cui l'università formalmente è aperta, però non ci va nessuno prima i professori. Quindi è allucinante, la gente non lavora, va lì solo per bere dalla mattina alla sera, perché ci sono baracchini con mangiare, bere, un vino speciale che ha non mi ricordo quanti gradi. E poi ci sono i vari stand con, non so, 20 discoteche diverse. Ci sono dei capannoni, non so neanche come spiegare perché non ho mai visto una cosa così vita mia. Una città intera, insomma, a festa, per 10 giorni. Esatto, per 10 giorni. E in più c'erano anche le giostre, quindi vedevi bambini, adulti, ragazzi, tutti in festa. Sei riuscita ad aprire i libri, o quando aprivi un libro si mettevano a ballare sopra il tuo libro e quindi ti toccava rinunciare? Seria no. Il libro, però erano banditi i libri. Una colonna sonora invece di un'altra, insomma, oltre al grandissimo Pitbull di questa feria. È un sacco duro. Cos'è un sacco duro? È una canzone di Don Omar, se non sbaglio, che si chiama Danza Cuduro ed è la sigla della feria sostanzialmente, perché la mettevano sempre molto allegra, quindi per noi è diventata un po' come la canzone da feria sostanzialmente, non capendo inizialmente cosa volesse dire, quale fosse il titolo. Noi italiani la cantavamo un sacco duro. Giustamente, non poteva essere lo svedese a dare un soprannome equivoco al... No, è arrivato... E noi non possiamo neanche dire in radio l'ulteriore variazione che ha avuto il nome. Esatto, provate a giocare con gli anagrammi. Ecco. Questa è un sacco duro. Sacco duro, eccoci, na na na, el corazon, bene. Un sacco duro. Siamo ormai in Erasmus anche noi a Haen e siamo già pronti per la movida notturna, però... Allora Greta, com'è stato ritornare, un bilancio che tu potresti stilare di questo Erasmus, se è stato, diciamo, solo divertimento o comunque a livello anche universitario è stato produttivo e, diciamo, ne sei risultata arricchita? Sì, non è stato solo divertimento in realtà, ho fatto feste i primi mesi, poi mi sono messa a studiare perché essendo l'ultimo anno ormai certe cose le avevo già fatte e non volevo perdere troppo tempo, quindi sono riuscita a dare ben 4 esami. È la Madonna. Scelti. Perché praticamente prima di partire si fa un piano di studi, no? Con un certo numero di esami che si intende sostenere, è così? E puoi cambiarlo durante l'anno, puoi farne meno, puoi farne di più, puoi fare quello che vuoi, almeno per noi italiani, mentre vedo che gli stranieri hanno dei termini un po' diversi, più stretti, diciamo. Ok. I crediti che prendi sono esclusivamente quelli degli esami oppure ci sono anche dei crediti aggiuntivi per il fatto di essere in Erasmus, tipo? Come credito F ti riconoscono crediti per l'Erasmus. Okay. Sono dei crediti aggiuntivi che ti riconosco come credito F, però non so neanche se tutte le facoltà abbiano questi crediti F, perché io per esempio in triennale non ce li avevo, però con la riforma che hanno fatto la triennale di adesso ce li ha, è un po' un casino, però ti riconoscono qualcosa per l'Erasmus. Però sì, comunque sono riuscita a frequentare i corsi, a dare esami, sono molto più facili di quelli che abbiamo noi in Italia, almeno per quanto riguarda la mia facoltà ho avuto questa impressione. Nel senso che sono facilitati per gli Erasmus, cioè gli Erasmus in qualche modo vengono un po' aiutati o agevolati? No, sono molto più facili dei nostri in generale. Tu li facevi in spagnolo? Sì, avevo la possibilità di farne in inglese alcuni, non tutti. Però hai scelto lo spagnolo comunque. Per esempio ti dico, l'esame di economia dell'Unione Europea era, se frequentavi, facevi dei lavori durante il corso, cosa che io ho fatto, avevi solo un esame a crocette alla fine. Io sono rimasta sconvolta perché ho fatto l'esame a crocette e vedevo che tutti andavano dalla professoressa, si facevano dire qualcosa e tornavano al posto. Ho detto, boh, vado anch'io. Sono andata e lei ti segnava le domande sbagliate senza dirti qual era la risposta giusta. Però sai, su 3 opzioni, sai che una è sbagliata. Già, ecco. Era un po' una buffonata alcune cose. Allora, però ti aiutavano molto se frequentavi durante il corso, questo sì. Se non frequentavi avevi delle cose aggiuntive da fare, un esame con domande aperte per esempio. Però la cosa bella, diciamo, che magari sarebbe da importare in Italia, è che rendevano le lezioni molto interattive, cioè, professori e studenti, oltre al fatto che gli studenti chiamavano i professori per nome, cosa che a me sembrava allucinante, non ho mai fatto perché non sono abituata. Però lavori in classe, discussioni, su questo puntavano molto. E se facevi queste cose eri facilitato per l'esame finale. Se io fossi un professore spagnolo di scienze internazionali e diplomatiche, ti avrei chiesto all'esame di interpretare che diavolo abbiamo combinato noi italiani in fatto di politica internazionale negli ultimi tempi. Quanto ho discusso con dei professori appunto per la nostra politica. Una cosa che mi hanno chiesto in molti spagnoli, tra l'altro anche il mio proprietario di casa o altri proprietari delle case che ho visitato, erano, sei italiana, ma perché votate Berlusconi? Sta domanda che è un po' come chiedere perché c'è il Big Bang, insomma, c'è stato il Big Bang, non si sa. Infatti per l'esame di sociologia delle organizzazioni ho concordato un tema con il mio professore che è stato appunto studiare se ci fosse una connessione tra l'arricchimento del partito del popolo della libertà e l'immagine della donna che propone il partito stesso. Quindi comunque la questione italiana è osservata da vicino all'estero, in Spagna nel tuo caso. Sì, tra l'altro sai cosa ho scoperto l'altro giorno? Non c'entra con l'Erasmus, però ho scoperto che ci sarà un corso estivo alla Oxford University quest'estate incentrato proprio su Berlusconi, un corso che costa più di 1.000 euro, devo dire. Madonna, ma sarà un corso in cui di cosa parleranno, secondo te? Ho visto il programma, parlando di come è arrivato al potere, non lo so poi di cos'altro parleranno. Ah, quindi è un master di magia? Un master di magia? Ecco, chiamiamolo così, va? Prima che ci oscurino la trasmissione. Allora, tornando invece al tuo Erasmus, quando sei ritornata in Italia? A febbraio più o meno? Sì, a fine febbraio. Com'è stato? Perché non lo so, è stato un distacco da una parte sofferto, dall'altra dovuto, perché comunque avevo le mie cose da fare, l'università, il moroso, la famiglia, i miei cagnolini, queste cose qui. Però dall'altra, per esempio, soprattutto in questa stagione, mi manca tanto l'Andalusia, le persone che avevo conosciuto, i luoghi, perché comunque ho avuto la fortuna di viaggiare tanto e mi manca perché è bellissima ed è una cosa veramente stupenda viverla più che visitarla. Viverla non si può spiegare. Quindi un po' di nostalgia c'è, ecco. Sì, però non ho quella nostalgia della vita Erasmus che magari molti hanno. Penso perché ho scelto di fare l'Erasmus all'università. Se fosse andata al primo o al secondo anno, non avevo la testa, io quella volta forse non sarei neanche tornata in Italia. Ecco, vabbè, sono scelte, insomma. Alla fine è andata bene anche così, dai. Non essere così triste. E quindi, visto che ti manca così tanto l'Andalusia, noi ora facciamo un esperimento, ovvero lanciamo un pezzo. Nel frattempo ci colleghiamo con un tuo amico, giusto, che è Luca e che è ancora a Jaén, no? Tu l'hai conosciuto lì? Sì, l'ho conosciuto lì. Nonostante non volessi legarmi troppo con gli italiani, a Luca voglio tanto bene e mi manca tanto. Quindi lui è l'unico insomma che è stato graziato. No, anche Pier Paolo, italiano parlo. Mm-hmm. Loro due sono italiani con cui ho legato tanto. Per gli altri sono stranieri. Ok, allora ti lasciamo in stand-by. Presentiamo un pezzo, questo sì, della tradizione musicale spagnola del flamenco. Ed è di Paco de Lucía, sono inquieto e torniamo in studio con Luca. La bulería te mueve, su aire a ti te mueve, ya ti te mueve, su aire a ti te mueve. Si tú no tienes soniquete, pa' que te mete, pa' que te mete. Si tú no tienes soniquete, pa' que te mete, pa' que te mete. Thank you. Now Boarding, Radio Chandonà, rientriamo in studio, ce l'abbiamo fatta a collegarci con Jaén in Andalusia, dove troviamo Luca. Ciao Luca! Ciao, ciao ragazzi, ciao a tutti! Come stai, bene? Ottimo! Tutto bene, grazie. Anche voi? Sì, sì, sì, non c'è male, dai. Abbiamo appena... Siamo stati scossi dalle scelte musicali di Greta, che ci ha scelto dei pezzi che mettevano su quando era in Erasmus, robe tipo Pitbull. Oddio. Macaco. Ah, Pitbull, sì. Ecco, qui vanno molto. Quindi ti puoi immaginare la nostra situazione in questo momento, siamo veramente scossi. Un po' scioccati. Ecco, esatto. Quindi tu appartenevi al gruppo del sacco duro, giusto? Sì, diciamo di sì. Sì. Con Greta eravamo tra i rappresentanti migliori, diciamo. Sì. Qui questo tipo di musica va molto. Beh, sì, qui ce l'ha detto. E, Erasmus a Jaén, quindi una città abbastanza piccola nel sud della Spagna. Com'è in realtà fare un Erasmus in una città così? È positivo, nel senso che è una buona posizione. Si viaggia abbastanza facilmente, nel senso che ci sono molti autobus e il biglietto è economico. I collegamenti con il treno non sono molto sviluppati, però insomma si viaggia abbastanza facilmente in generale. Sì, Granada, Cordova sono vicine e in generale tutto il sud è collegato abbastanza bene. Io sapevo che e poi com'è? Sapevo che i treni spagnoli sono in mano a molte compagnie private, cioè nel senso ci sono diverse compagnie private che gestiscono anche le ferrovie, è vero? Sì. I treni in generale sono abbastanza, ecco, sono abbastanza puntuali e sono anche belli, sì, molto confortevoli, ecco. Però il fatto è che il biglietto è più dell'autobus e non ci sono molti collegamenti. E questo è un po' il lato negativo, nel senso, non so, perlomeno io ero abituato a viaggiare più che altro in treno in Italia. Mm-hmm. E qui non ho ritrovato la stessa cosa, ecco. Qui, ecco, ti dico, con l'autobus ti porta praticamente ovunque, anche dall'altro capo della Spagna, proprio si viaggia più che altro in autobus, ecco. Ah, addirittura, quindi anche tratte che, insomma, fare in Italia in autobus è abbastanza arduo, insomma. Sì, anche tratte di 10 ore, per dirti, ecco, per farti un esempio. Mm-hmm. Sì. E comunque sono abbastanza ben organizzati, ecco. Hai avuto modo, in generale c'è un po'... C'è un po' il topico dello spagnolo che vive in maniera abbastanza tranquilla, quindi con un po' di ritardo, e questo ci si deve fare l'abitudine un po', però per il resto è abbastanza buono come organizzazione. Dei ritmi abbastanza questo rilassati, sì. In Spagna, no? Sì. Ti dirò, per farti un esempio, i supermercati chiudono, fanno la siesta, quindi è impossibile fare spesa per esempio all'una o alle due. Se tu quindi... entri in supermercato prima delle 5 di sera, trovi le commesse che stanno dormendo tipo sulla cassa. Sì, chiuse dentro il supermercato e non hanno intenzione di aprire prima delle 6, 6 e mezza. Ma qui mi hanno detto che in estate apre addirittura dopo, sì, 6 e mezza. 6, 6 e mezza. Ah, proprio sì, perché assurdi. Fa veramente caldo qui d'estate, come 45 gradi per dirti. Quindi la gente non esce durante il pomeriggio e di conseguenza i supermercati o comunque le attività commerciali chiudono e riaprono alle 6, 6 e mezza di sera. E oltre alle altre città, Jaén com'è? Carina come città? Mi diceva Greta che ha un centro storico, no? Sì, ha un centro storico abbastanza bello, ha una cattedrale abbastanza conosciuta qua e Jaén mi sembra sia uno delle prime comunità in Europa, insomma, dal punto di vista storico, quindi abbastanza ricca. Mm-hmm. E in generale hanno comunque rimodernato un po' la città, hanno costruito il tram, quindi diciamo che sta diventando più carina, più vivibile. Certo. La parte alta della città è vecchia e è tenuta abbastanza bene. Più si va in basso, più... Insomma, è un po' più antica, diciamo, un po' più lasciata andare. Si vede parecchio. Però in generale è si vede parecchio l'impronta. No, abbiamo un po' di ritardo con Skype, ma comunque si vede parecchio l'impronta araba. Perché in teoria tutta l'Andalusia, no? Ha subito la dominazione araba. Sì, si vede parecchio. Si nota abbastanza. E comunque sì, in generale, sì, come hai detto, l'Andalusia, in generale l'Andalusia è molto araba. Granada penso sia l'esempio più lampante di questa cosa. Però anche qui ci sono, per esempio, bagni arabi, ci sono molte costruzioni che vengono direttamente dall'epoca araba, della preconquista, insomma. E comunque sì, è molto, molto arabeggiante come città, abbastanza, soprattutto d'estate. Si nota abbastanza, sì, questo sì. Sì, quindi è anche, credo, interessante vedere un po' una doppia faccia delle città. Andiamo invece adesso con il penultimo pezzo di questa puntata. Siamo stati un po' scortesi, nel senso che non ti abbiamo chiesto neanche di portare un pezzo, quindi continuiamo con quelli di Greta. Questo è Camminando por la Via di Melendi, non so se lo conosci anche tu. Ah, sì. Il figlio del buon gusto di Greta. Entusiasmo alle stelle, abbiamo sentito nel tuo andiamo a sentirci Camminando por la Vida. Huele aire de primavera, tengo alergia en el corazón. Voy cantando por la carretera, de copiloto llevo el sol. Y a mí no me hace falta estrella, que me lleve hasta tu portal. Como ayer estaba borracho, fui tirando miga de pan. Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa. Sin complejo ni temores, canto rumba de colores, y el llorar no me hace daño siempre y cuando tú no llores. Ay, siempre y cuando tú no llores. Y el milindri a mí me llama, en el mundillo calé, porque al coger mi guitarra se me van solo los pies. Y este año le pido al cielo la salud del anterior. No necesito dinero, pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa. Sin complejo ni temores, canto rumba de colores, y el llorar no me hace daño siempre y cuando tú no llores. Ay, siempre y cuando tú no llores. Pero sin prisa, procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa. Sin complejo ni temores, canto rumba de colores, y el llorar no me hace daño siempre y cuando tú no llores. Ay, siempre y cuando tú no llores. Allora, rieccoci in studio, now boarding, con Luca e Greta, che adesso sta sbirciando la nostra discussione di nuovo. Allora, Luca, spostiamoci un attimo da Haen e andiamo a vedere i viaggi che tu hai fatto, i posti che hai visto, le tue impressioni appunto sui diversi luoghi della Spagna. Io ho cercato di... sono stato prevalentemente in Andalusia, ho cercato di vivermi un po' l'Andalusia, quindi sono stato a Granada, Siviglia, poi ci sono alcuni paesini qua vicino come Úbeda e Baeza che sono davvero interessanti, e Cordoba, insomma le città più grandi, ecco. E sono davvero, sì, si sente molto, come dicevamo prima, l'influenza araba, e soprattutto questa Granada, sono, ci sono posti davvero interessanti. Non so, un lato positivo della, dell'Andalusia sono le tapas, per essere molto pragmatici. Beh, certo. Assolutamente. Sì, sì. E questo è una cosa che non si trova in tutta la Spagna, devo dire. E poi... quindi sostanzialmente, sostanzialmente sono delle piccole osterie tipiche, no? Se vuoi parlare un po'. Sì, sì. Sono, sì, sono praticamente adesso come dei bar, per intenderci, dove tu vai per comprare, non so, una Coca-Cola, una birra, e ti danno qualcosa da mangiare, da spizzicare, che insomma è anche abbastanza sostanzioso a volte. Con, diciamo che con un euro, ecco, diciamo con 3 euro fai un buon pasto. Sì. Ah, con niente praticamente. Sì. È davvero, davvero molto economico, e sono davvero tipici, perché quello che ti offrono da mangiare è davvero, insomma, è tipico della zona. Ci sono, adesso si chiamano albondiga, che sono come polpette tipiche di qua di Caen, o c'è, cioè, la tostada che è tipica, oppure cos'altro. Beh, qui va molto la cerveza, devo dire la verità, birra, i liquori qua sono di norma. Sì, ce ne ha parlato, sì, Greta. Frequentati anche, sì, da gente, sì, anche da gente del posto, quindi, no, queste tapas, quindi hai modo magari di conoscerle. Sì, sì, sì, sì. Questo sì è un ottimo modo per conoscere comunque com'è la vita qui in Spagna in generale, o in Andalusia. È un ottimo modo, sì. E ti dicevo, non è queste tapas non sono in tutta la Spagna, quindi è anche un tratto caratteristico dell'Andalusia, devo dire, questo sì. E sono frequentati da persone davvero tipiche di qua. Un ottimo modo, ecco, sì. E sempre in Andalusia, come vedi la situazione dell'immigrazione? Nel senso, c'è un flusso dall'esterno, magari anche dal Nord Africa, di gente che arriva in Spagna, un po' come qua? Sì. Sono molti nordafricani che vengono alla ricerca di lavoro qui nel sud, soprattutto. Come riesci a gestirla il governo, questa cosa? Riesci a gestirla bene? Si integrano facilmente? Ma... o ci sono i problemi anche magari di integrazione che abbiamo, sì, noi, cioè, qua in Italia? Questi problemi ci sono, cioè c'è l'integrazione, nel senso che la gente del posto è abituata comunque a convivere con persone nordafricane, anche perché c'erano prima di loro, quindi c'è una convivenza un po' forzata, però non c'è questa integrazione, non c'è questa integrazione molto profonda, nel senso, la vedi anche nei gruppi di ragazzi che non sono molto integrati. È un po' come in Italia, no? Vedi ragazzi, gruppi di ragazzi marocchini, gruppi di ragazzi italiani da una parte. In realtà non saprei dirti se c'è questa integrazione. So che sono molte persone nordafricane che vengono qui alla ricerca di lavoro. Per esempio, Almeria ci sono questi invernaderos, che sono delle serre enormi, dove c'è molto lavoro nero, ci sono molte persone nordafricane che vanno lì a cercare la ricerca del lavoro e vengono anche sfruttate, ecco. Una situazione anche abbastanza, sì, simile a quella italiana, quindi. Sì, è una situazione abbastanza simile, effettivamente. Bene, Luca, noi siamo quasi in conclusione di puntata, nel frattempo a me è venuta anche la tosse. Ecco. Lorenzo, ci dai tu 2 contatti? Sì, allora, i contatti del programma, su Facebook ci trovate come Nowboarding RSD, ci trovate anche nel nostro blog nowboardingrsd.wordpress.com, in cui trovate podcast e streaming dalle nostre puntate, e mentre potete sentirci in diretta su Radio Sandonà, il sito di Radio Sandonà, radiosandona.it, potete scriverci alla nostra mail info.bandieragialla@gmail.com. È tutto, mi sembra. Sì, è tutto. Luca, noi siamo in chiusura, non so se Greta ci sia ancora. Greta? Sì, ci sono. Eccola qua. Beh, allora se volete salutarvi vi lasciamo qualche secondo per salutarvi nel frattempo. Ciao Luca. Ciao Greta, ti salutiamo, io e Orge qui dalla Spagna. Ecco, ma sembra un po' Carramba che sorpresa in questo momento. Io sono anche un po' commosso, devo dire. Sì, anche io, mi sta scendendo una lacrima. Ecco. Peccato non avere la sigla di Carramba. Peccato. Ragazzi, grazie mille. Buon proseguimento di Erasmus a te, Luca, e... Grazie. Beh, buon proseguimento di cosa, Greta? Di vita. Di vita. Stiamo sul generico, che non si sa mai. In bocca al lupo per l'annessione di Gorizia all'Andalusia, allora. Sì, vediamo, 12 giugno, mi raccomando, andate a votare anche per l'annessione di Gorizia all'Andalusia. Ecco, dunque c'è l'acqua e poi l'annessione appunto di Gorizia nell'Andalusia, alla quale bisogna votare sì per se si vuole Gorizia in Andalusia. Sì. Ok. Votiamo tutti sì. Ecco. Bene, noi ci diamo appuntamento a mercoledì prossimo. Meta che definiremo in corsa, Lorenzo, vediamo un po'. Vedo cosa trovo tra le offerte in agenzia viaggi. E ci lasciamo con un gruppo spagnolo, sono gli Scapé, canzone dedicata, insomma, che descrive in qualche modo la Spagna, e Spagna va bien. Ni un puto duro, estoy en la puta calle, me he quedado sin curtelo. No he pagado la hipoteca, han expropiado mi casa y casi voy al talego. Acuerdos de sindicatos, de gobierno y empresarios me han dejado sin el paro. Trabajando muy jodido cuando me iban a hacer fijo. Es que España va muy bien para los de siempre, para el banquero, para el alcalde y para nuestro presidente. Pero para el que se lo ocurra, todo sigue igual de mal. No nos toques los cojones, iros todos a mamar. Recortar gastos sociales, apretando al pensionista, repatriar al inmigrante. Es política de ricos, empresarios y banqueros.